Verso la fine di novembre Charlotte si recò nella grande Babilonia, tra virgolette, e fu immediatamente afferrata da un mulinello. Ogni cambiamento, stimolo, variar di scena che per un'altra sarebbe stato cosa da nulla, era moltissimo per lei. Come le accadeva sempre quando avvicinava estranei, a tutta prima fu alquanto intimorita dalla famiglia che l'ospitava. Immaginava che le signore la osservassero con un misto di rispetto e di allarme, ma dopo pochi giorni, ammesso che quello stato d'animo fosse mai esistito, i suoi modi quieti e semplici, il suo fare delicato e casalingo, lo avevano completamente dissipato. Tanto che scrive di pensare che incomincino a trovarla simpatica mentre a lei le ospiti piacciono molto, visto che la gentilezza è una potente accaparatrice dei cuori. Aveva chiesto che non le fosse imposto di incontrare molta gente. La vita solitaria che conduceva le procurava un'ansia nervosa per i visi nuovi, un'ansia che non superò mai. Tuttavia, desiderava ardentemente farsi un'idea precisa dell'aspetto e dei modi di alcune persone i cui scritti o le cui lettere l'avevano interessata. Mr. Thackeray fu invitato a incontrarla, ma si diede il caso che lei rimase fuori casa per quasi tutta quella mattina e non tornasse in tempo per l'ora di colazione. Questa circostanza le cagionò un violento mal di capo, abituata com'era all'orario regolare della canonica, senza contare che l'eccitamento dovuto al fatto di far la conoscenza di un uomo qual era Mr. Thackeray, di sedergli vicino, di udir parlare l'autore della Fiera delle Vanità che lei ammirava senza restrizione, era sufficiente di per sé a travolgere i suoi fragili nervi. 10 dicembre 1849. In quanto a sentirmi contenta, sono dominata da scene e da circostanze eccitanti, ma a volte, oh, sono preda di sofferenze acute, sofferenze mentali. Quando Mr. Thackeray si presentò, mi sentivo quasi svenire per la fame, non avendo mangiato nulla dopo una leggerissima prima colazione, ed erano ormai le 7 di sera. L'eccitamento e l'esaurimento mi lavorarono selvaggiamente quella sera. Quello che egli abbia pensato di me, non so dirlo. A me, disse, quanto trovò difficile in quel primo incontro con Mr. Thackeray scoprire se egli parlava scherzando o seriamente e che lei aveva, o pensava, interpretato del tutto erroneamente una sua domanda fatta quando i signori erano entrati in salotto dalla sala da pranzo dove si erano trattenuti. Le aveva chiesto se aveva penetrato il segreto dei loro sigari, al che lei aveva risposto alla lettera, rendendosi conto un minuto più tardi, grazie ai sorrisi degli astanti, che lui aveva fatto allusione a un passo di Jane Eyre. I suoi ospiti avevano piacere di farle conoscere i luoghi celebri di Londra. In uno dei giorni scelti per queste piacevoli escursioni fu pubblicata sul Times una severa critica di Shirley. Charlotte aveva saputo che il suo libro sarebbe stato recensito su quel giornale e capì che doveva esservi una qualche ragione perché i suoi ospiti avessero cura di smarrirlo proprio quella mattina. Disse che capiva la ragione della scomparsa del giornale. Mrs. Smith ammise immediatamente che la sua idea era azzeccata e le disse che avrebbe voluto che esaurisse gli impegni di quella giornata prima di leggerlo. Charlotte si ostinò quietamente nella richiesta di vederlo. Mrs. Smith riprese il suo lavoro di cucito sforzandosi di non osservare l'espressione dell'altra che tentava di nascondersi dietro le pagine, ma non poté non accorgersi delle lacrime che le rigavano le guance cadendo sul grembo. Per prima cosa Miss Bronte espresse la paura che una recensione così severa potesse limitare la vendita del libro, danneggiando così gli editori. Per quanto ferita, il suo primo pensiero fu per gli altri. Più tardi, a quanto penso in quello stesso pomeriggio, Mr. Thackeray venne a farle visita e la sospettò, a quanto disse, che fosse venuto per vedere come sopportava l'attacco contro Shirley, ma si era ripresa e conversò tranquillamente con lui. Non rifiutò di essere riconosciuta quale autrice di Jane Eyre perché si accorse che poteva ricavare alcuni vantaggi mettendo da parte lo pseudonimo. Uno dei risultati fu il rapporto che strinse con Miss Martineau, che si interessava di riforme politiche e sociali. Le aveva inviato il romanzo appena uscito con una curiosa nota in cui Currer Bell offriva una copia di Shirley a Miss Martineau, in riconoscimento del piacere che aveva provato nel leggere i suoi lavori. Come Currer Bell, Charlotte scrisse che dal romanzo Deerbrook aveva ottenuto un acuto piacere e ricavato un genuino beneficio. A suo parere, Deerbrook, eccetera, eccetera, proseguiva. Miss Martineau, nel rispondere a quelle righe, ringraziando per la copia di Shirley, datò la lettera dalla casa di un'amica che abitava nelle vicinanze della residenza di Mr. Smith. Quando una o due settimane più tardi Miss Bronte scoprì quanto si trovasse vicina alla sua corrispondente, le scrisse firmando Currer Bell per proporle un incontro. Le 6 del 10 dicembre, una domenica, fu l'ora fissata per l'appuntamento in casa dell'amica di Miss Martineau che aveva invitato lo sconosciuto Currer Bell a prendere il tè, non senza parecchie congetture circa il suo sesso, la sua età, il suo aspetto. A dire il vero, Miss Martineau aveva espresso chiaramente la sua personale opinione, iniziando con un «cara signora», la risposta alla lettera sopra citata, in cui il mittente si attribuiva costantemente il pronome maschile, ma l'aveva poi indirizzata al signor Currer Bell. Ad ogni squillo del campanello, gli occhi delle due amiche si volgevano alla porta. Un estraneo, un gentiluomo, entrò e per un momento pensarono che si trattasse di lui, di Currer Bell. Si trattenne un poco e se ne andò. Un'altra scampanellata e fu annunciata Miss Bronte. E fu introdotta una giovane signora di statura quasi infantile, vestita di nero a luto stretto, con una semplicità da quacchera, capelli castani accuratamente lisciati, i begli occhi splendidi di pensiero, il viso sensibile improntato alla consuetudine dell'autocontrollo. Entrò, esitò un momento nel trovare una riunione di 4 o 5 persone. Poi andò direttamente da Miss Martineau riconoscendola per istinto e grazie alla comunità dei sentimenti e dell'educazione signorile fu subito come una della famiglia intorno al tavolino da tè. E prima di andarsene disse loro in modo semplice e toccante del suo dolore e del suo isolamento e le basi furono poste per una duratura amicizia con Miss Martineau. Dopo alquante discussioni e la promessa che non sarebbe stata presentata a nessuno, Mr. Smith invitò a pranzo alcuni amici per l'ultima sera del suo soggiorno a Londra. Il posto che le spettava, naturalmente, era a fianco del padrone di casa e quelli che le dovevano sedere vicini furono disposti in conseguenza. Ma nell'entrare nella sala da pranzo, Charlotte sgusciò rapidamente fra gli astanti e andò a porsi a fianco della padrona di casa, ansiosa di rifugiarsi all'ombra di una presenza del suo stesso sesso. Questo gesto rispondeva all'intimo istinto di cercare una protezione femminile in ogni occasione dove l'affermazione della sua indipendenza non fosse richiesta. Ella scrive a proposito: Mrs. vigila strettamente quando sono tra estranei. Non mi toglie gli occhi di dosso. Mi piace essere sorvegliata, sembra che mi faccia la guardia. A proposito del pranzo, scrive quanto segue a una compagna di scuola dei giorni ormai lontani di Bruxelles con la quale aveva rinnovato l'amicizia durante la sua visita a Londra. La sera, dopo che ti ebbi lasciata, trascorse meglio di quanto mi ero aspettata. Grazie alla sostanziosa seconda colazione e a una stimolante tazza di caffè, sono stata in condizione di aspettare il pranzo alle 8 con totale rassegnazione e di sopportarne la lunghezza con grande coraggio. E non mi sono sentita così esaurita da non riuscire a conversare, e di questo sono lieta, perché so che i miei gentili anfitrioni sarebbero stati molto delusi se mi fossi comportata diversamente. A pranzo c'erano solamente 7 signori, oltre a Mr. Smith, ma 5 degli ospiti erano critici letterari, uomini più temuti nel mondo delle lettere di quanto tu possa immaginare. Non mi resi conto di quanto la loro presenza e la loro conversazione mi aveva eccitata finché non se ne furono andati e subentrò la reazione. Essendomi ritirata per la notte, desideravo dormire, ma il tentativo fu vano. Non mi riuscii di chiudere occhio. Trascorse la notte. Sopraggiunse la mattina e mi alzai senza aver conosciuto un istante di sonno. Quando giunsi a Derby ero così esausta che fui costretta a passarvi la notte. 17 dicembre. Eccomi nuovamente a Haworth. Ho l'impressione di essere uscita da un turbine di emozioni. L'incalzare degli impegni, il loro stimolo, non sarebbero sembrati granché a uno abituato agli impegni sociali e al cambiamento, ma per me sono stati molto pesanti. Le forze e lo spirito si sono frequentemente dimostrati impari a quanto veniva loro richiesto. Mi sono sforzata di tenermi su per quanto era umanamente possibile, perché quando cedevo potevo vedere la preoccupazione di Mr. Smith. Pensava sempre che fosse stata fatta o detta qualcosa che mi aveva urtata, il che non accadde nemmeno una volta, perché sempre incontrai perfetta educazione anche negli antagonisti. Quelli che avevano fatto del loro meglio o del loro peggio per criticarmi duramente. Gli spiegai ripetutamente che il mio occasionale silenzio dipendeva dalle forze che mi venivano meno, mai dalla volontà. Thackeray ha una mente titanica. La sua presenza e le sue facoltà impressionano profondamente dal punto di vista intellettuale. Non ne vedo i limiti umani. Tutti gli altri sono inferiori. Ho stima per alcuni e confido cortesia per tutti. Naturalmente non so cosa abbiano pensato di me, ma credo che i più si aspettassero che mi sarei presentata in una luce più marcata, eccentrica, atta a far colpo. Credo che desiderassero trovare in me più cose da ammirare e da censurare. Mi sono sentita a mio agio con tutti, eccetto Thackeray. Con lui mi sono sentita proprio una stupida. Charlotte tornò al suo quieto focolare domestico e ai suoi silenziosi doveri quotidiani. Suo padre aveva una certa inclinazione verso le celebrità, cosicché prese gran piacere al resoconto di quello che la figlia aveva visto e di quelli che aveva incontrato. In occasione di una visita a Londra aveva espresso il desiderio di ottenere informazioni sull'armeria del principe Alberto, se le fosse stato possibile recarvisi. Non so se le riuscì di farlo, ma andò in una o due delle grandi armerie nazionali per poter descrivere al padre, la cui immaginazione era molto sollecitata da questo spettacolo, le severe armature d'acciaio e le spade rilucenti. In seguito, quando lo spirito di lui vacillava e il languore della tarda età minacciava di vincere la sua indole indomita, lei toccava ancora questa nota e gli parlava delle quantità di strane armi che aveva visto a Londra, finché non vedeva rinascere l'interesse della vecchia vocazione e lui tornava ad essere l'uomo acuto, combattivo, intelligente dei tempi passati. Capitolo 5. La vita a Haworth era così monotona che la visita del postino costituiva il momento culminante della giornata. Tuttavia Charlotte temeva di cedere alla tentazione di concentrare ogni suo pensiero su quell'unico evento, perdendo interesse nel disbrigo delle faccende più modeste. Perciò si negava il piacere di scrivere lettere con troppa frequenza, visto che le risposte, se le giungevano, mettevano in secondo piano ogni altra cosa, mentre la delusione le toglieva l'energia necessaria al disbrigo delle faccende domestiche. L'inverno di quell'anno al nord fu duro e freddo, ma incise sulla salute di Miss Bronte meno del solito, probabilmente perché il cambiamento del viaggio e i consigli dei medici che aveva consultato le erano giovati. Anche l'amica E le aveva fatto una lunga visita e l'aveva costretta a dar peso a quei sintomi che Miss Bronte era troppo incline a tenere in poco conto, per tema di turbare la serenità del padre. Ma non poté evitare di sentirsi profondamente depressa mano a mano che si avvicinava il primo anniversario della morte di sua sorella Emily. Tutti i ricordi di quell'evento erano penosi e nulla accadde che potesse distrarla e alleviare la pressione. In questo tempo, come in molti altri, nelle sue lettere ci sono allusioni al conforto che trovava nei libri che le giungevano dal suo editore. «A volte mi chiedo che cosa farei senza di loro», scrive. «Vi faccio ricorso come ad amici. Accorciano e rallegrano molte ore che altrimenti sarebbero troppo lunghe e troppo desolate. Anche quando la vista stanca non mi permette di continuare a leggere, è piacevole vedere i libri sulla scansia o sul tavolo. Sono ancora molto ricca, poiché la mia riserva è lungi dall'essere esaurita. Altri amici mi hanno inviato dei libri ultimamente. Lo scorrere L'Eastern Life di Harriet Martineau mi ha dato un grande piacere. E ho trovato un interessante e profondo argomento di studio nel lavoro di Newman, L'anima. Hai letto questo lavoro? È ardito. Può contenere errori, ma è puro ed elevato. Ormai tutti sapevano dove viveva Currer Bell. Ella si paragonava allo struzzo che nascondeva il capo nella sabbia e diceva che continuava a nascondere il suo nella brughiera di Haworth, ma che il nascondiglio era pura illusione. E in verità lo era. In tutto il West Riding si era sparsa la notizia che Currer Bell altri non era che una figlia del venerabile parroco di Haworth. Nel villaggio vi fu grande eccitazione. Mister, avendo finito di leggere Jane Eyre, reclama a gran voce l'altro libro. Lo deve avere entro la prossima settimana. Mister ha finito Shirley. Ne è rimasto incantato. La moglie di John ha pensato seriamente che fosse uscito di cervello quando l'ha sentito esplodere in risate fragorose e seduto solo soletto applaudire battendo i piedi al suolo. Voleva leggere ad alta voce a papà tutte le scene in cui c'erano i curati. Marta, la servetta, ieri giunse sbuffando e soffiando, estremamente eccitata. Ho sentito di quelle notizie. Incominciò: a che proposito? Per piacere, signora, lei ha scritto due libri, i più grandi che si sono mai visti. Mio padre lo ha sentito dire a Halifax e a Mr. GT e a Mr. M a Bradford, e vogliono fare un raduno al Mechanics Institute. Tutti i membri vogliono acquistarlo. Frena la lingua, Marta, e va a fare il tuo lavoro. Quando i volumi sono arrivati al Mechanics Institute, tutti i membri li volevano, li tiravano a sorte, e chiunque vinceva un volume aveva il permesso di tenerlo solamente 2 giorni, e fu stabilito che chi lo trattenesse più a lungo doveva pagare uno scellino al giorno. Sarebbe pura stupidaggine e pura vanità riferirti quello che ne dicono. Il tono in cui sono riferiti i brani succitati è perfettamente consono con la mentalità della gente dello Yorkshire e del Lancashire, che tenta finché le è possibile di nascondere le emozioni e la soddisfazione sotto la pretesa di farne poco conto, quasi prendendosi in giro. Miss Bronte in realtà era in segreto profondamente commossa dal modo in cui quelli che l'avevano conosciuta fin da bambina erano orgogliosi e felici del suo successo. La notizia si era diffusa in tutto il circondario. Estranei giungevano da oltre Bromley per vederla mentre entrava quietamente in chiesa, senza sapere di essere osservata, e il sacrestano incassò più di una mancia per indicarla ai curiosi. Ma vi era un rovescio della medaglia. Di questo cordiale e affettuoso apprezzamento, che aveva più valore che non la fama, sul numero di gennaio dell'Edinburgh Review era apparso l'articolo su Shirley, scritto dal suo corrispondente Mr. Lewis. Ho già detto che Miss Bronte desiderava essere criticata in quanto scrittore, senza allusioni al suo sesso. A torto o a ragione, ci teneva con veemenza. Orbene, nella critica di cui parlo, l'intestazione delle due prime pagine era eguaglianza mentale dei due sessi e letteratura femminile. Per di più, in tutto l'articolo si fa continuamente allusione al sesso dell'autore. Qualche giorno dopo l'apparizione dell'articolo, Mr. Lewis ricevette le seguenti righe. A G.H. Lewis: so guardarmi dai nemici, ma Dio mi liberi dagli amici. Currer Bell. Mr. Lewis mi ha fatto il favore di precisare quanto segue. Visto che era poco ragionevole e molto irritata, le scrissi in rimostranza di quel suo infuriarsi per la severità e la franchezza di una recensione che era dettata da vera ammirazione e da sincera amicizia. Anche sotto le obiezioni si poteva percepire la voce dell'amico. Segue la risposta di Charlotte. 19 gennaio 1850. Caro signore, le dirò perché sono stata tanto ferita da quella recensione nell'Edinburgh. Non fu per la critica pungente, per il biasimo a volte severo, non per le lodi misurate, perché in verità penso che lei mi lodi su per giù quanto merito, ma perché dopo che le avevo detto assai chiaramente che desideravo essere giudicata in quanto scrittore, non in quanto scrittrice, lei ha trattato così ruvidamente. Ho persino pensato così crudelmente il mio essere donna. Penso che lei non abbia avuto cattive intenzioni e forse non capirà perché sono tanto amareggiata da quanto lei considera probabilmente un'inezia, ma amareggiata fui e anche indignata. Vi sono un passaggio o due che lei non aveva alcun diritto di scrivere. Tuttavia non gliene serberò rancore. Conosco la sua natura, non è cattiva né incapace di gentilezza, anche se a volte pronta a urtare terribilmente i sentimenti di coloro di cui non sa capire la ritrosia e la modestia. Immagino che lei sia entusiasta e implacabile, come è a un tempo sagace e disattento. Lei sa molte cose e molte ne scopre, ma la sua sbrigliata eloquenza toccherà gli altri, anche se lo venisse a sapere, non ne terrebbe alcun conto. Tuttavia le stringo la mano. Lei ha doti eccellenti, sa essere generoso. Io sono ancora irritata e penso a ragione, ma la mia irritazione nasce dall'aver subito un trattamento più grossolano che malevolo. Sono sua con un certo rispetto e molto dispiacere, Currer Bell. Come Mr. Lewis dice giustamente, il tono di questa lettera è scortese e io lo ringrazio per avermi permesso di pubblicarla come esempio del carattere di Miss Bronte. Intanto la sua salute soffriva. Non so che pesantezza di spirito incombe su di me in questi ultimi tempi, scrive con patetiche parole uscite dal cuore. Appanna le mie facoltà, trasforma tutto il resto in spossatezza, ogni occupazione in fatica. A tratti il silenzio della casa, la solitudine delle stanze mi opprime con un peso difficile da sopportare. e la memoria è tanto desta, pungente, importuna, quanto altri sentimenti invece languono. Attribuisco questo stato di cose in parte al tempo. Il mercurio invariabilmente scende in occasione di burrasche e di venti e io sono avvisata dei turbamenti atmosferici in arrivo da un senso di stanchezza fisica e da una profonda, pesante tristezza alla quale certuni darebbero il nome di presentimento. E in verità è un presentimento, ma senza nulla di soprannaturale. Non sono capace di soffocare in me l'eccitazione dell'attesa dell'ora della posta e quando un giorno dopo l'altro non mi reca nulla mi deprimo. È un comportamento stupido, vergognoso, privo di senso comune. Mi sento amaramente irritata da questa mia dipendenza, direi quasi follia, ma è così dannoso per la mente l'essere assolutamente soli, non avere nessuno con cui commentare i piccoli contrattempi, le delusioni e spazzarle via con una risata. Se mi riuscisse di scrivere, penso che mi sentirei meglio, ma non riesco a mettere giù una riga. In ogni modo, con l'aiuto del divino, lotterò contro questa follia. L'altro giorno ho ricevuto una lettera alquanto sciocca da... Alcune cose in essa mi hanno lasciata perplessa, specialmente una non necessaria, calorosa assicurazione che, a dispetto di tutto quanto avevo scritto, conservavo il mio posto nella sua stima. Alcuni giorni fa è accaduto un fatterello che mi ha stranamente commossa. Papà mi ha posto tra le mani un pacchetto di lettere e carte dicendomi che erano della mamma e che le potevo leggere. Le ho lette in una condizione di spirito che non so descrivere. I fogli erano ingialliti dal tempo, essendo stati scritti prima della mia nascita. Era strano leggere attentamente ora, per la prima volta, le annotazioni di una mente dalla quale era scaturita la mia. Più strano ancora, allo stesso tempo triste e dolce, scoprire che quella mente era stata di prim'ordine, bella, pura ed elevata. Erano lettere scritte a mio padre prima del loro matrimonio. Vi è in esse grande rettitudine, raffinatezza, costanza, modestia, buon senso, gentilezza. Ho desiderato che fosse vissuta e di averla conosciuta. Durante tutto questo mese di febbraio avevo trascorso giorni tormentosi. Non potevo sfuggire ai ricordi luttuosi, gli ultimi giorni, le sofferenze, le parole dolorosissime per me di coloro che, la fede me lo garantisce, sono ormai felici. Di sera, e all'ora di andare a letto, questi pensieri mi perseguitavano, portando con sé un pesante sconforto. La lettrice rammenterà la strana visione profetica che le aveva dettato alcune parole scritte in occasione della morte di una sua alunna nel gennaio 1840. Queste parole erano: ovunque io la cerchi, ormai nel mondo non può essere trovata, non più di quanto lo possano essere un fiore o una foglia appassiti 20 anni fa. Un simile strazio mi permette di intuire quali siano i sentimenti di coloro che hanno visto cadere l'uno dopo l'altro gli amici e sono lasciati a finire da soli il loro pellegrinaggio terreno. Perfino persone di salute naturalmente robuste che non hanno da ricordarsi di tempo felice nella miseria. Perdono salute e appetito nel dolore incessante della solitudine. Tanto più questo accadeva nel caso di Miss Bronte, di costituzione fragile e delicata, provata da molte ansie e dolori fin dalla prima giovinezza e ormai sola ad affrontare la vita. In conseguenza della tarda età e di un'abitudine affermatasi in anni ormai lontani, Mr. Bronte si dedicava a occupazioni solitarie, lasciando a se stessa la figlia per la maggior parte della giornata. Fin da quando era stato molto malato, pranzava da solo. Ora Charlotte portava nello studio il pranzo, regolato con stretta cura sulla dieta adatta. Consumato il pranzo, gli faceva una lettura ad alta voce per un'ora o giù di lì, perché la vista di lui si era indebolita tanto da non consentirgli di leggere a lungo per proprio conto. Rimaneva fuori casa fra i suoi parrocchiani buona parte del giorno, spesso più a lungo di quanto le forze glielo avrebbero consentito. Ma gli piaceva andare da solo, perciò l'affettuosa sollecitudine della figlia non poteva controllare le sue lunghe camminate fino alle più lontane frazioni della parrocchia. A volte tornava esausto ed era costretto a mettersi subito a letto, chiedendosi tristemente dove mai fosse andata a finire la sua antica forza fisica. La volontà era intatta, quello che decideva di fare lo faceva, costasse quel che costasse, ma l'ansietà della figlia era acuita dal vederlo così incurante di sé e della propria salute. Alla canonica ci si era sempre ritirati per dormire poco dopo scesa la notte, Le preghiere in famiglia si dicevano alle 8 e subito dopo Mr. Bronte e la vecchia Tabby andavano a letto e Martha non aspettava molto prima di seguirli. Charlotte, se li avesse imitati, non sarebbe riuscita a dormire. Non avrebbe trovato riposo nel suo letto desolato. Prese l'abitudine di restare su tardi, sempre più tardi. Tentava di ingannare la notte solitaria dandosi a una qualche occupazione finché gli occhi deboli non le permettevano di leggere o di cucire più a lungo e poteva solamente piangere in solitudine la morte di coloro che non c'erano più. Nessuno al mondo può immaginare cosa tali ore furono per lei. Le cupe superstizioni nordiche le erano state impresse nella mente durante l'infanzia dalle domestiche che vi presentavano fede. Ora le tornavano alla memoria, non la paura per gli spiriti dei morti, ma la brama di trovarsi almeno una volta faccia a faccia con le anime delle sorelle, con un'intensità tale che nessuno all'infuori di lei avrebbe potuto sperimentare. Le sembrava che la forza di quel desiderio dovesse costringerla ad apparire e nelle notti ventose pareva che vicino alla casa si udissero grida, singhiozzi e gemiti, come se le tanto amate si stessero sforzando di giungere fino a lei. Una volta qualcuno criticò in mia presenza la parte in Jane Eyre in cui l'eroina, durante una grave crisi, ode la voce di Rochester che la chiama mentre lui si trova a molte miglia di distanza. Non so cosa Miss Bronte ricordasse in quel momento, ma l'udì replicare a bassa voce, trattenendo il fiato: «Ma è un fatto vero, realmente accaduto!» Il lettore, la lettrice che si rappresenti anche solo debolmente la vita di Charlotte a quel tempo, le giornate solitarie, le notti insonni, può immaginare a quale tensione nervosa ella fosse sottoposta e come un simile stato inevitabilmente si ripercuotesse sulla sua salute. Non fu una cattiva cosa che proprio in quel tempo varie persone si recassero a Haworth, curiose di vedere lo scenario di Shirley, di conoscerne l'autrice, a volte per pura curiosità, altre volte spinte da un sentimento più generoso, per scoprire se non potevano in qualche modo essere d'aiuto o sollevare il morale di chi aveva sofferto così grandi dolori. Fra questi ultimi vi furono Sir James e Lady Kay Shuttleworth. La loro casa si trova al di là del crinale della collina che sorge al di sopra di Haworth, a circa una dozzina di miglia a volo di uccello, però assai più lontana seguendo la strada, ma secondo l'accezione data alla parola in quel distretto così scarsamente popolato erano vicini, se tali si volevano considerare. Perciò Sir James e sua moglie giunsero in carrozza ai primi di marzo per far visita a Miss Bronte e a suo padre. Prima di prendere congedo, la invitarono calorosamente a far loro una visita a Gawthorpe, la loro residenza nel Lancashire orientale. Dopo aver esitato alquanto, spinta dall'urgente insistenza del padre, che era ansioso di procurarle un qualsiasi cambiamento di scena e di compagnia, aderì all'invito. Quella visita le procurò grande piacere, a dispetto della timidezza e della difficoltà che sempre provava nell'accettare le gentilezze di estranei che si sapeva nell'impossibilità di contraccambiare. Provò grande piacere per le quiete gite in carrozza alle antiche rovine o alle annose dimore situate nei boschi sulle colline. I dialoghi vicino al caminetto, nel salotto, dalle pareti rivestite di quercia, che, scrive, non mi oppressero né mi esaurirono oltre misura. «Anche la casa è proprio di mio gusto», scrive Charlotte, «ha quasi 300 anni, è grigia, maestosa e pittoresca. Nell'insieme, ora che la mia visita è conclusa, non mi rincresce di averla fatta. Il lato peggiore della cosa sta nella minaccia sospesa sul mio capo di un invito a trascorrere la stagione mondana a Londra in casa loro. Ho questa prospettiva che darebbe grande gioia a tante, a me ispira terrore». Dovrei apprezzare in alto grado i vantaggi che conseguirei dall'avere un più vasto orizzonte, ma tremo al pensiero del prezzo che dovrei inevitabilmente pagare in stanchezza fisica e mentale.